fare tutta la Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo diretta del venerdì sera in Ristoradio Convento in compagnia dei mitici da Più Vega, giusto ragazzi? Giusto. Giustissimo. E siete la classe? 97. Ok, vai, presentatevi tutti con i nomi, così abbiamo i nomi di tutti. Io vai. Sono Brecco Brecco 97, attenzione, pattuglia sulla Valle d'Aosta. Esatto, detto anche Enrico per chi ti conosce. Enrico lo shaker. O Cracker lo shaker su Instagram. Esatto, seguitelo, anche a merenda va benissimo. Poi abbiamo Noemi. Noemi è Vittoria. Esatto, ecco, giustamente ci siamo presentati tutti velocissimamente. Vittoria è l'organizzatrice della serata, fatele un applauso perché grazie al suo sbattimento siamo qua. Qui stasera. Esatto. Sbattuta solo per la serata. Un altro ragazzo che si è sbattuto mi sembra è Enrico, giusto? Enrico, ci racconti cosa ti è successo? Ragazzi, buonasera a tutti. Io sono Cracker lo shaker, se non mi mischi non mi conosci. E questo è un tutto dire. Sto godendo come un riccio in questa sera al convento. Gli è successa una cosa molto particolare. Mi è successa una. Lo segnerà per la vita, presumo. Ecco. Lo penso anch'io, Lore. Racconta. Caro racconta amico con stile, delle mie racconta amiche con stile. Medie. Mi è capitato un tipo qua che mi sta al vetro, che mi pignora, mi fa sì con la testa, però. Con un capello invidiabile, tra l'altro. È un bello capello, direi. Un bello capello. Ah, okay. Ancora meglio di Sandrino, perché lui c'ha il capello. È un capello alla grappa. È una sfida diversa. Il suo trasuda alcolico. Qua in fianco c'è il mio amico Luca l'elettricista, che lui collega la 380 con la 220. Racconta l'aneddoto, per favore. Vai. L'aneddoto, lui ride, mi guarda con degli occhi. Non sapendo. Mi dice di no. Purtroppo gli amici a casa non possono vedere questo spettacolo. Se capita un uomo normale con una donna, non riesce a resistere. Però dai. Se capita un uomo con un uomo, gli dà una badilata. È facile. Beh, ma tu che pianti pomodori, cosa ti è successo con i pomodori? Che lui qua vuole che gli pianti. Raccontala con stile, okay. Enrico, con stile. Dai, vai. Racconta. C'è Argimora, che è molto che? Sexy. Argimora? Argimora è Vittoria. Ah, la Vittoria. Scendi. Vai, Enrico, racconta la storia, tanto sono qua, non finiamo più. Al microfono, vicino. Vicino. Vai. Infatti, le parolacce tue che mi hanno detto di non dirle. Beep. Esatto. Con la storia, se non finiamo più. Allora, c'è una suspense tremenda, E questo ragazzo... bello e grapposo. Soprattutto grapposo. Mi ha chiesto se gli piantavo dei pomodori, ma io gli ho detto. E non... che pomodori? No, non li hai detto. Quanti le parolacce tue? Che Sandrino allora, mi ha detto. Allora, mi hanno detto i tuoi amici che non hai detto con la voce. Hai. Le testate? No, hai. No. Sì, aspetta che te lo dice al microfono, Vittoria. Vai vicino. Io ho questo amico. Cosa ha fatto? Cosa fatto? Ha delle abitudini un po' particolari. Sì, allora, quando la gente mi sta un attimo addosso, io sono come una puzzola a un certo momento. Flatulo. Usi il sistema di difesa naturale. Ecco. Vittoria, ce lo spieghi te. Che con gli aghi lui usa. E scappo. Noemi? Confermiamo. Confermate. Possiamo confermare. Allora. È ancora viva per raccontarlo. In situazioni di disagio, Enrico rilascia delle fragranze. Degli odori. Per i non conoscenti. Dei peti. Usa la tecnica della puzzola, praticamente. Degli aromi che neanche i cimici in primavera riescono ad esprimere. Ma poi ce l'hai pronta all'uso? Lontani 5 metri è facile che non vi bruciate, ma se state a 4 è facile che vi incenerite i capelli. Ecco, no, ma Enrico, la curiosità è, ce l'hai sempre pronta all'uso? Sì. Dipende dall'umano che ho davanti. Dipende dall'umano. Beh, per il 90% diciamo carica, che dipende sempre... dalla situazione di irritabilità. Ecco, allora, o c'è facile la testata o la flatulenza. No, no, noi ci piace la flautolenza. L'ha petata, allora, Sandrino. Ecco, il bello capello di. Il bello capello del convento. No, è piano. Cristo, lì c'è il convento. Bello grappino e qua c'è il bello capello. Bello grappino. Ha detto: non dite parolacce. No, scoreggiato ci qua sta. Siamo nel dubbio. È un sistema di difesa. Anche flautolenza. Noemi, una domanda a Noemi. Noemi, tu lo conosci da tanto tempo, Cracker? Qua? Purtroppo sì. Com'è, okay. Com'è che è? Cracker. Cracker lo shaker. Se non mi Mischi non mi conosci. Non mi conosci. Okay. Me lo devo tatuare, così. Noemi, tu hai assistito altre volte a Enrico in questo stato di difesa, anche con le ragazze a volte lo fa? Allora, personalmente non mi è mai capitato, per fortuna. Probabilmente non Preco, come si dice? Preco, non disprezza la mia presenza, spezia, forse. Per fortuna che abbia emesso certi odori, tromba è capitato in situazioni un po' particolari, diciamo. Che lui è fatto così. Il bello di Cracker lo Shaker è che se non mi mischi non mi conosci. Non mi conosci. Ma tu occhio mischiati, perché se ti conosco un po' troppo a volte mi ammazzo. Allora tu ti devi fare i parolacce. Argi Mora può confermare i tuoi puntini. Ci sta. Ascolta, avviciniamo il microfono a Vittoria un attimo, per favore. Perché, Vittoria, per gli amici Argi Mora. Sono molto vergognosa. Vittoria, no, sei una grande. Grazie. Allora, Vittoria, Noemi mi ha detto nell'orecchio mentre eri distratta che potreste usare questa tecnica per i ragazzi. Quando un ragazzo vi continua ad assillare, è mai successo che qualcuno gli venisse in mente un'idea del genere? No, guarda, sinceramente non mi è mai capitato, però è una bellissima idea. Non pensate per il futuro? Potrebbe essere una soluzione, no? Assolutamente sì. Per fortuna abbiamo un amico che ci dà questi consigli. Esatto. Vedo che bello grappino avrà inteso la situazione, perché ci sta guardando. Bello grappino, Vittoria, prendi spunto, perché col bello capello che c'è poi. È molto attento la Vittoria, è una cosa di difesa, cioè non è del diavolo, del genere. Mentre agli altri due amici, avete qualche aneddoto del passato dove Enrico si è esibito ancora così alla grande? Io ne ho uno volendo. Ecco, vai. Eravamo sul pulino di calcio. Sì. E stavamo andando verso l'allenamento e Enrico dovrebbe essersi mangiato una buonissima carota, perché lui aveva questa usanza. Si mangiava le carote e dopo essersi mangiato la carota alla fine la lanciava anche. Carota. Non riesco a aspettare una cosa. Comunque, l'aneddoto più importante. Aspetta, finisci l'aneddoto. L'importante è stato quando la macchina ci seguiva e lui era un po' anche sospettito di questo, ha deciso di mostrare il suo bellissimo culo sul finestrino posteriore. Ah, ha sfruttato. Scoraggiare la macchina che vi la macchina anche che scoreggiare, secondo me, oltre che scoraggiare, anche scoreggiare. Sì, ma non mi ricordo giusto la flautolenza del momento. Ma insomma, Enrico usa questa arma incredibile per funziona anche, perché in questi anni penso che abbia sempre funzionato. Non riesce a rispondere, purtroppo, perché due cose in una. È un uomo. Non è multitasking. Attenzione per tutti i camionisti che ci possono seguire. Io ho un numero che potete mandare i messaggi al 348 030 72 32, e potete scrivergli tutti i problemi che avete con le vostre donne, i vostri camion e le vostre ruote e anche in questo momento dell'autostrada. Capita. È Giacomo Piccioni, lavora la Marcegaglia prende i soldi al numero di Giacomo. Sì, pensavo di Vittoria. Sì. Io no. Vittoria non possiamo diciamo darlo, perché quella è sull'autostrada, non sull'autostrada. Vittoria si prendono tutti i giochi di sua richiesta, però ovviamente anche lì si può fare una stampa la regola. Ecco, il problema è che io ho trovato in questi anni è che Loris ha un problema molto grave con la R moscia, che non sa dire ramarro marrone. Ecco, facciamo. Ma sa dire ramarro marrone. Ma neanche 33 trentini riesco a dire, se vogliamo bene. Facciamoglielo dire questo ramarro, dai, faccelo sentire. No, ci piace sempre ramarro marrone. L'ha detto senza R, ragazzi. L'ha tolta è anche questa è una qualità, ma se vuoi un cinese ce l'ha la R moscia? Secondo me ce l'ha dalla parte, come le donne che ce l'hanno dalla parte. L'unica R chiara mi sa che è quella del virus chiaro adesso. Ecco, perfetto. Ha detto una cosa questo ragazzo, fantastico. Allora, non so se il black humor è apprezzato qui, però guarda che il ragazzo fuori, il vostro amico fuori, dice fate la svelta, perché che lo spacco fuori devo, no, funzioni con come puzzola, va benissimo. dopo un certo ora posso dire una bene. Perla notturna. La perla. No, basta che non la fai, basta che non fai la perla notturna. Non la faccio, però posso dire. Digli al microfono, però, se no ti sentiamo. Leggermente sporca. Basta che non ci siano parolacce. No, non ci sono. Vai. Vai. Ho qualche dubbio. Se sporca, puliscila. Donna, ricordatevi tutti i camionisti o amici che ci seguite. C'erano i camionisti. Donna magra di petto, vacca nel letto o anche mucca nel letto. Ricordate. Perfetto, questo ragazzo è un poeta, è un poeta. Ecco, poesia, poesia. Ecco, poesia. Vittoria, tu sei piatta ma o no? Media, media, media, media. Con la birra, tra poco, tra poco uscirà il suo inserto con la birra media. Io pirla. Io pirla e tu pirlo. Il mio amico qua elettricista che con la 220 ci vuole un buddy. La fine che domani si tira anche un fulmine. Ragazzi, i camionisti sono arrivati praticamente a casa, perché se non vi siete accorti è 10 minuti che stiamo parlando del nulla praticamente. Beh, il tempo è giusto così, almeno li accompagniamo verso casa con qualche perla di saggezza. Esatto. Fortunato, perché io non ho altro tempo. No, pensavo che non avessi più colpi dietro. Va bene, dai, salutiamo tutti al microfono, partendo buonanotte a Vittoria. A tutti, ragazzi. Bussano a quest'ora del mattino. Vai, Vitto, saluta. Buonanotte. Era Madonna, cos'era? Il respiro. Era spino. Buonanotte a tutti, ragazzi. Ricordatevi, l'aria di mattina è fresca e si avvicina. Peccato che sia notte fonda, ma va bene così. Il problema è che se beccate l'aria di mattina e diventa un po' nuida. Buon primo febbraio dal gruppo di Piubega, Leva 97, Piubega, provincia di Mantova. Dì anche gli indirizzi che abbiamo posto. Dite con quale voce. Via San Cassiano. Ecco. Ciao da Noemi, Vittoria e tutto il resto. Ciao. Buonanotte. Ciao, buonanotte.